resto in dubbio tra un pagliaccio deviato da un contesto che detesto, uno scambio di generazioni di ghiaccio. Avevano il fuoco e l'han spento, corre un nuovo Prometeo, ma sono ateo nel meteo. C'è solo il cielo, un sole nascosto, presagi di olocausto. Io rimango un mostro ma esausto, rinchiuso in una gabbia di vetro. Non so se desisto, insisto, forse protesto, forse credo che quello che dai lo riprenderai, e credo che quello che vuoi non lo otterrai mai, e credo che quello che sei non lo capirai. Un pessimista convinto, un ribelle senza santi, perso nell'universo di Marte. Credo che vivere sia troppo difficile, credo che ci voglia una laurea solo per compiere un crimine. Credo nel bene, nello stare insieme, credo che un seme attecchirà sulle nostre catene. Credo alle persone vere, basso quelle sincere. Odio i lecca culo perché non mi vogliono bene. Bevo alle cene per dimenticare le scene di un copione abusato da questo paese. La fame cresce, ne facciamo le spese. La democrazia ci domina e siamo sempre noi che ne facciamo le spese. Sono lunghe le attese di un qualcosa di meglio, fu un'idea equilibrista tese. Cico, devo stare sveglio, devo dare il mio meglio, ma non mi muovo di un miglio a spostar merda là di meglio. Voglio poco, in fondo, un cazzo di vessillo per combattere, un combattente da battere. Resto in dubbio tra un pagliaccio deviato da un contesto che detesto, uno scambio di generazioni di ghiaccio. Avevano il fuoco e l'han spento, corro un nuovo Prometeo, ma sono ateo nel mezzo. C'è solo il cielo, un sole nascosto, presagi di olocausto. Io rimango un mostro ma esausto, rinchiuso in una gabbia di vetro. Non so se desisto, insisto, forse protesto, forse credo che quello che dai lo riprenderai, e credo che quello che vuoi non lo terrai mai, e credo che quello che sei non lo cambierai. Un pessimista convinto, un ribelle senza santi, perso nell'universo di Marte. Credo che crescere sia come combattere, cerchiamo un cazzo di ideale, ma ci servono veline nelle nostre squallide cene. Sono scene o scene di persone aliene, noi siamo il loro specchio. Il grande lui guarda ciò che detiene, è la sagra dell'involucro, non di ciò che contiene. E non mi importa il suo bene, ma se lui mi sostiene gli rubo tutto e lo lascio in una botte come Diogene. Ha pronta una tassa sul pene, perché il sesso è l'unica tassa da cui si astiene. Appartiene al credo del potere, ci dobbiamo convivere, dicono. E se non vuoi desistere, devi prendere a battere. E non basta le lettere, hanno porta lettere, interessi da compromettere, ci vogliono sottomettere. Bene, Cico, sono un partigiano e sono anni che imparo a resistere. Resto in dubbio tra un pagliaccio deviato da un contesto che detesto, uno scambio di generazioni di ghiaccio. Avevano il fuoco e l'han spento, corro un nuovo Prometeo, ma sono ateo nel meteo. C'è solo il cielo, un sole nascosto, presagi di olocausto. Io rimango un mostro ma esausto, rinchiuso in una gabbia di vetro. Non so se desisto, insisto, forse protesto, forse, e credo che quello che dai lo riprenderai, e credo che quello che vuoi non lo terrai mai, e credo che quello che sei non lo cambierai. Un pessimista convinto, un ribelle senza santi, perso nell'universo di Marte. Credo che sopravvivere sia uno status di passaggio, sarò un vecchio svantaggio con un passato in selvaggio. Brucerò un pomeriggio per un banale gorgheggio, ma mi aspetto sempre il peggio. D'altronde Marte è un vecchio saggio, siamo comete di passaggio bruciate in un incendio, petrolio greggio. Siamo il frutto di un sorteggio, variabili in pareggio. Sono un cazzo di ostaggio che fa del proprio linguaggio il manifesto di un pazzo. E credo che quello che dai lo riprenderai, e credo che quello che vuoi non lo terrai mai, e credo che quello che sei non lo cambierai. Un pessimista convinto, un ribelle senza santi, perso nell'universo di Marte. Resto in dubbio tra un pagliaccio deviato da un contesto che detesto, uno scambio di generazioni di ghiaccio. Avevano il fuoco e l'han spento, corro un nuovo Prometeo, ma sono ateo nel meteo. C'è solo il cielo, un sole nascosto, presagi di olocausto. Io rimango un mostro ma esausto, rinchiuso in una gabbia di vetro. Non so se desisto, insisto, forse è solo qualcosa di misto.